loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà. Mani in alto, fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo. Superiore, quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì, scusi secondino. Secondino una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere e tutti gli altri strumenti coercitivi che privano della libertà, gli altri dispositivi, il manicomio, il CIE e più, chi più ne ha più ne metta, e stanno anche in mezzo a noi. Dunque questa è la Conta, trasmissione appunto contro il carcere, che va in onda ogni mercoledì su Radio Onda Rossa. Dunque iniziamo appunto, sono le 15.03 e oggi è il 23 di settembre. Dunque il problema, i problemi sono tanti e quest'oggi vorremmo affrontare un problema partendo dall'alto, il punto più duro della carcerazione, gli elementi più feroci, ed è quello che si chiama il 41 bis, tutti sanno. Il 41 bis oggi è il modo, il sistema di carcerazione più duro che c'è nei penitenziari italiani. Ha preso il posto dell'antico di qualche decennio fa, articolo 90. Diremo adesso quali sono le condizioni di chi vive in articolo 41 bis. Ne parliamo perché molti diranno vabbè, ma gli ultimi dati dicono, i più recenti, che sono 725 le persone in 41 bis su 53-54 mila, diciamo una piccola percentuale, perché non parlare di tutto il resto. Abbiamo detto più volte però che il sistema penitenziario italiano, ma anche tutti gli altri, è un insieme organico, non è che così come il codice penale, così come tutti i codici, sono insiemi organici. Non è che c'è una violazione di legge, la punizione per una violazione di legge è sganciata dal resto. Sono tutti all'interno appunto di un sistema unitario che cerca di salvaguardare in primo luogo l'ordine sociale. Questo è non tanto la difesa delle proprietà dei vari cittadini, le cui proprietà possono essere messe minacciate dall'aggressione dei ladri, rapinatori, eccetera, ma quanto di tenere in piedi l'ordine sociale. Questo perlomeno è ciò che ha costruito, diciamo, i teorici del sistema giudiziario nei periodi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Questo sistema organico ha un vertice, che so, in Italia c'è l'ergastolo ostativo, poi l'ergastolo semplice e via via fino ai reati cosiddetti bagatellari, piccoli, no? Ecco, più è alto il vertice, la punta dell'iceberg, cioè il punto più alto, e trascina in alto tutte le altre condanne. Il meccanismo è questo. Per esempio, guardate appunto in Italia, che ha il punto massimo l'ergastolo ostativo, cioè un ergastolo dove non si esce se non con in bara, cioè da morti, che sono esclusi tutti i benefici, le deduzioni, le possibilità di misura alternativa. Ebbene, se voi vedete tutte le altre condanne in rapporto, per esempio, a un altro ordinamento, prendiamo uno qualsiasi, per esempio la Norvegia, che ha come massimale, qualunque cosa tu fai, non può superare il massimo di 20 anni di reclusione. Qui da noi è molto più, cioè, diciamo, l'ergastolo viene assimilato a 40 anni, l'ergastolo ostativo molti di più, se metti 50, non so, poi perché è infinito. Comunque anche l'ergastolo semplice sono 40 anni, perché la semilibertà si prende a 20 anni, quindi è più o meno equiparata a 40 anni di detenzione. Ebbene, tutti gli altri reati sono trascinati in alto. Se prendiamo quello norvegese, che il massimale è 20 anni, qualunque cosa fai non puoi essere condannato a più di 20 anni di reclusione, vedete che tutti gli altri reati sono, diciamo, le condanne per varie violazioni di legge sono più basse, a parità di, che ne so, il furto con scasso, con cioè fatto qui o in Norvegia, vede una differenza, perché appunto è l'ergastolo da noi che tira in alto tutte le altre pene. Laddove appunto in molti paesi il massimo è 20 anni, perché chiaramente per un principio si afferma che lo Stato non può punire per più di 20 anni una persona, non può togliere la libertà per più di 20 anni, già è tanto 20 anni, è praticamente una vita. E quindi, siccome i principi di alcuni paesi sono che lo Stato comunque non si può impossessare totalmente di una vita, hanno messo un limite. In Italia invece no, c'è ancora questo modo di ragionare assoluto, ma non è solo dello Stato e dei ministri, dei governi, è un po', perlomeno è passato un po' anche tra la gente. Se voi vedete qualunque cosa che colpisce l'indignazione di qualcuno, dicono le persone, ovviamente un po' instupidite dalle difficoltà di vita, dal lavoro forse stressante, o dall'assenza di lavoro, o dalla mancanza di soldi, o da tante cose, sono stressati, stanchi, affaticati, e non riescono a ragionare, tant'è vero che per qualunque cosa dice: ah, buttateli dentro, metteteli dentro e buttate la chiave. Questo è un modo di dire abbastanza diffuso in questo paese. Va bene, e questo per dire che ovviamente se l'ergastolo è il punto più alto del sistema di condanne, cioè della quantità di anni di privazione della libertà che il giudice può comminare come condanna, il sistema di carcerazione va anche questo estremamente differenziato, come le violazioni di legge, e va dal sistema più dolce, più tranquillo, dolce si fa per dire, lo dicono loro, comunque quello, diciamo, meno grave, che è gli istituti di custodia attenuata, dove addirittura stai sempre con le celle aperte, puoi pure girare un po' intorno e così via, a quelli appunto, alle carceri una volta si diceva di massima sicurezza, adesso si dice in 41 bis, ma cambiate le parole, il concetto è quello. Ecco, e allora noi parlando del regime più duro 41 bis parliamo di tutto il sistema carcerario, perché alcune cose che esistono nel 41 bis poi le ritroviamo chiaramente più attenuate nel sistema carcerario normale. Che cos'è, com'è la vita del 41 bis? Semplice, sta in cella 23 ore su 24, un'ora d'aria al giorno, in dei cortili di cemento con le reti sopra che sono poco più grandi di una cella, quindi caldissimi d'estate, freddissimi d'inverno, in cui puoi solo sgranchirti le gambe, ma nemmeno tanto, in non più di quattro persone. Quindi vedrai quattro persone per tutta la carcerazione, sempre gli stessi, a meno che qualcuno muore oppure esce, e insomma quattro persone puoi vedere, quelli delle celle limitrofe. E questo è il colloqui, uno al mese oppure secondo due al mese, poi secondo, c'è anche questo, anche il 41 bis ha delle articolazioni e con i familiari rigidi, cioè solo fratelli, sorelle, padri e madri e figli e basta, quindi collaterali e diciamo genitori oppure figli. Sono vietate qualunque tipo di attività sportive, la palestra, il computer, tutto è vietato. E ultimamente, da un po' di tempo, hanno vietato anche la possibilità di ricevere i libri dall'esterno. Ecco, per questo adesso un po' di persone ha sollevato questo problema, perché già è gravissimo ovviamente togliere tutto, ma togliere anche quell'unica possibilità che uno ha in quelle condizioni di non dare le capocciate al muro, perché sono situazioni in cui si danno le testate al muro perché non hai proprio nulla da fare, non per scelta tua ma per costrizione, è chiaro che la lettura è l'unica possibilità per non impazzire. Evidentemente loro vogliono che lì dentro si impazzisca. E allora loro, cioè coloro che ci hanno in mano le chiavi, cioè quindi i ministri, i governi eccetera, i magistrati anche, e quindi hanno messo il limite a tre libri, non si possono tenere più di tre libri in cella, che già è abbastanza gravoso. Evidentemente quelli che hanno scritto questa cosa non hanno molta dimestichezza con i libri, gente che probabilmente non ha mai toccato libri, se hanno dei titoli di studio l'hanno presi così di straforma. Chiunque ha sfogliato dei libri sa che avendo molto tempo uno si accinge a più letture, non è che legge lo stesso libro dalla mattina alla sera, perché si articola a letture come articola le attività laddove le attività sono libere, cioè quando stai a casa tua dove ti pare che fai una cosa, e così anche quando hai soltanto la lettura come attività possibile è chiaro che insomma, la mattina leggi un certo libro, il pomeriggio un altro, la sera un altro e così via. Quindi vabbè, però questa è una costrizione vessatoria, non ha nessun senso. E però appunto questo ha fatto scattare un sistema d'allarme, perché in realtà già è tortura il 41 bis, e questo lo dice, non lo diciamo solo noi, lo dicono tutti, l'ONU, Amnesty International, cioè tutti coloro che non hanno legami diciamo di carattere clientelare con apparati governativi. Ma in più chiaramente se si tolgono anche gli altri libri, chiaramente vuol dire che si vuol portare queste persone alla morte. Perché si fa questo? Non è per cattiveria, perché dicono governanti, magistrati eccetera, hanno detto gli facciamo del male perché sono cattivi. Non è solo questo, è il tentativo di far del male, cioè torturare vero e proprio, in maniera vera, queste persone con l'unica possibilità di uscire da quelle condizioni di tribolazione se confessano delle cose, che queste cose siano vere o false non ha importanza. Cioè devono mandare in galera altre persone, devono dire c'entra anche nella mia associazione, nella mia cosa c'entra anche Tizio, che è sempre olio, e quelli vanno lì e li arrestano. Se poi questi c'entrano o non c'entrano non è che la cosa interessa molto. Abbiamo letto l'altra volta i dati delle centinaia e centinaia di persone che dopo 10-15 anni si viene a sapere che sono state incarcerate inutilmente perché non erano sale. Comunque facciamo quindi una brevissima storia del 41 bis e poi leggiamo l'appello che si è fatto proprio perché diciamo contro il 41 bis, però prendendolo da questo aspetto che ha fatto scatenare un po' l'indignazione, ma anche un po' la rabbia di tutti quanti coloro che insomma, ci tengono a che le persone non vengano torturate, perché appunto oltre tutto il resto hanno tolto anche i libri. Allora, una breve storia. L'ordinamento penitenziario in questo paese di carattere, diciamo, repubblicano, cioè diverso dall'ordinamento che esisteva in epoca fascista, inizia nel 1975. Prima del 1975, a luglio proprio, nell'estate del 75. Prima del 1975 gli ordinamenti dentro le carceri erano gli stessi, esattamente gli stessi scritti in epoca fascista, nonostante nel 75 fossero passati più di 30 anni dalla liberazione. Questa liberazione era stata parziale, amputata, più che altro ideologica, perché poi su nessun terreno abbiamo visto chi l'ha ottenuta col fucile in mano quella liberazione, morendo, passando anni in montagna, eccetera, cioè la lotta partigiana, eccetera. Bene, tutta questa liberazione non si è vista. Sì, è caduto il regime fascista, ma i prefetti sono rimasti gli stessi, i questori sono rimasti gli stessi, i magistrati sono rimasti gli stessi, gli imprenditori sono rimasti gli stessi, le regole in fabbrica sono rimaste le stesse, in galera sono rimaste le stesse, nel testo unico di legge di pubblica sicurezza, cioè nel regolamento di polizia, il regolamento di polizia è rimasto lo stesso. Quindi di grandi cambiamenti, se non diciamo a livello formale, istituzionale, in realtà coloro che si sono battuti per farla finita con l'epoca fascista non ne hanno visti molti, e il carcere è uno di questi posti. Se per 30 anni è continuato a esistere il regolamento fascista, potete immaginare che il paese c'era. I direttori di carcere sono rimasti gli stessi, se non quelli che nella bagarre, giusta bagarre, dei giorni della liberazione di Roma, quando i capi fascisti scappavano e diciamo le formazioni antifasciste occupavano la città, qualcuno di questi sgherri è passato sotto le mani della rabbia popolare, e quindi non ha avuto modo di continuare la sua carriera di questurino, questore, prefetto o con direttore delle carceri. Gli altri che sono sfuggiti da queste cose hanno ripreso più o meno il loro posto. Allora, però poi negli anni dal 68, 69, 70 esplodono le rivolte. E i detenuti dicono: non vogliamo più vivere in queste condizioni, chiamatele come volete, in queste condizioni, e hanno tirato giù una serie di obiettivi estremamente interessanti, hanno scritto delle cose di grande valore, anche l'abbiamo detto più volte e non ci stancheremo mai di dirlo, negli anni delle rivolte, perché la lotta contro il carcere esalta l'individuo e la collettività della popolazione carceraria e anche di quelli che stanno fuori e aderiscono alla lotta dei carcerati contro il carcere. Bene, esalta la stimola l'intelligenza, e difatti in quegli anni sono scritte alcune cose sul carcere e contro il carcere di grande levatura, al punto tale che vengono ancora oggi studiate quello che hanno scritto i carcerati nei primi anni 70 durante le rivolte, vengono studiate in molte università, nelle facoltà di diritto, di giurisprudenza, di molte facoltà estere non italiane. In Italia si nasconde la storia di questo paese, perché poi dovrebbero dire perché hanno fucilato quelle persone che hanno scritto quelle cose lì, che invece per esempio all'Università della California li studiano come testi di grande valore. E ma siccome si vergognano di dire quanto erano infami e quanto continuano a esserlo, non se ne parla. Vabbè, quindi infatti non è un problema. Gli anni 70 vengono prevalentemente studiati fuori dal... come dire, dai confini di questo triste paese, che ancora invece qui dentro, per chiunque vuole fare carriera giornalistica, di scrittore, ce la deve dire che quegli erano anni di piombo, e c'erano i cattivi che erano cattivi e i buoni che erano loro che poi sono rimasti al potere. Vabbè, comunque nel 75, appunto, dopo sette anni di rivolte, Parlamento si decide di fare la riforma, una riforma che viene scritta dignitosamente da alcuni magistrati convinti dalle scritture dei carcerati, poi però quel testo originario viene trasformato tantissime volte nei passaggi tra Camera e Senato, ogni volta levano un pezzo e alla fine il risultato fa abbastanza schifo, cioè non tolgono quasi niente, formalmente molte cose ma sostanzialmente niente. In più mettono nel 1965 una serie di diritti che però si erano conquistati metro per metro i detenuti con le loro lotte e rivolte. Cioè mettono un articolo alla fine, l'ultimo proprio, si chiama articolo 90, perché alla fine di tutti gli articoli, che dice queste testuali parole: quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, per cui si riferisce a questioni interne al carcere, siccome appunto è stato scritto dopo sette anni di rivolte, quindi dice: quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, sottinteso in carcere, il ministro per la grazia e la giustizia ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari per un periodo determinato, per un periodo di tempo ristretto, in genere da 3 mesi, strettamente necessario, per un periodo determinato, virgola, strettamente necessario. Quindi dice che il periodo determinato e strettamente necessario deve essere limitatissimo. Questo dice in italiano questo testo, delle regole, sospensione delle regole di trattamento degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. E questo diventa l'articolo 90, ossia sospensione di tutti i diritti, tanto usa una parola sbagliata, confusa, perché non di diritti si tratta ma di rapporto di forza, comunque oggi si usa questa parola stupida, diritto, che non vuol dire niente. Comunque le conquiste, diciamo, dei detenuti possono essere cancellate di un botto da questo articolo 90 se il ministro decide che in quegli istituti di pena ricorrono motivi di ordine e sicurezza, che la concessione di quei benefici potrebbe compromettere l'ordine interno. Quindi si riferisce, appunto, come per dire: smettetela di fare le rivolte, altrimenti tutto quello che vi ho dato volevo, ecco, visto che le rivolte hanno ottenuto una serie di conquiste. E questa cosa nell'articolo 90 cominciano a metterci chi? Perché poi succede molto semplice, che appunto poiché questa riforma non soddisfa le richieste dei detenuti, che hanno fatto delle rivendicazioni chiare, come nei posti di lavoro allora succedeva, oggi non tanto, però insomma da qualche parte succede, speriamo stia riprendendo, ossia i lavoratori, per esempio, che succede oggi? In quasi nessun posto di lavoro il padrone, imprenditore, chiamatelo come volete, rispetta il contratto collettivo di lavoro. Ti rubicchia qua, ti rubicchia là, ti rubicchia sotto, a volte ti rubicchia dappertutto, cioè per diminuire il salario, perché se ti diminuisce il salario lui aumenta il già profitto che otterrebbe se ti pagasse il salario quello regolato dal contratto collettivo, però te ne ruba di più perché così accumula soldi e va avanti così. Poi a un certo punto caccia via tutti e lui si tiene sto bel malloppone. Vabbè, questo è il sistema capitalistico, questo è, finché ce lo teniamo, questo lavora così, non c'è un capitalismo buono, non c'è mai stato e non ci potrà essere. È una banda di ladroni, corrotti e corruttori e mafiosi, ecco qua. Bene, succede che appunto siccome c'era stata appunto queste rivolte, loro arrivano a quella soluzione, però mettono questa attiva come per dire: però non fate più rivolte. Invece le rivolte continuano a farle, perché non aveva soddisfatto le richieste dei detenuti la legge del 75, che è la riforma appunto del ordinamenti penitenziari. E infatti molta gente viene mandata in articolo 90. Non è che smettono, messi in articolo 90, cioè veniva in alcuni reparti bloccati tutti i benefici che altri avevano, colloqui, passeggi più lunghi e così via, le celle aperte, eccetera. E quindi molti, però non è che smettono di lottare, continuano la lotta anche in articolo 90. Molte rivolte sono state fatte da persone in carceri speciali con l'articolo 90, quindi non è che è impossibile. Come dicevano i vecchi carcerati, che l'unico sistema per impedire le rivolte è quando i detenuti smettono di pensare a ribellarsi. Arriviamo all'86, dove che cosa succede nel 1986? Tutto lo scontro che c'è stato negli anni 70 e che è continuato negli anni 80, parlo nelle carceri ma un po' anche fuori, con tempi leggermente diversi, ma comunque con le batoste, l'articolo 90, nel 77 fanno le carceri speciali, quindi una differenziazione anche fisica, alcuni vengono mandati nelle carceri di massima sicurezza dove già si sta malissimo, alcuni hanno l'articolo 90 ma altri hanno condizioni di vita comunque ridotte, 20 ore in cella, solo 4 ore di passeggio in qualche caso, oppure due, cioè cose, limitazione dei colloqui, di tutto. Questo nelle carceri speciali, alcuni di questi avevano anche l'articolo 90, e insomma, nonostante questo, però, appunto, non finiscono le rivolte, e allora passano dal bastone a aggiungere al bastone la carota. E nell'86 nasce un'altra, la cosiddetta riforma della riforma, dove viene abolito l'articolo 90. Dice: beh, meno male, perché non aveva fermato le proteste e le lotte, però. È un cambio di nome, inseriscono degli articoli, il 14 bis, che vorrebbe dire, che dice che per coloro che si sono macchiati di reati particolarmente efferati avranno una sorveglianza speciale e la perdita di alcuni benefici, e per molti e per questi verranno tenuti in un regime penitenziario che verrà chiamato 41 bis, che è un po' la riedizione dell'articolo 90 di vecchia memoria. Quindi lo aboliscono l'articolo 90, ma ripristino l'articolo 90. Però questa riforma della riforma dell'86, da qualche parte detta legge Gozzini, però anche questa non è esatta la dicitura, perché la proposta di Gozzini era molto diversa da quella che poi diventò legge. Comunque viene chiamata così legge Gozzini, quella dell'86 che concede i permessi, cioè era una riforma di concessioni, perché dopo aver usato il bastone, avevano visto che il bastone non pacificava le carceri, aggiungono anche la carota, così carota e bastone hanno pensato di normalizzare e pacificare le carceri. I permessi premio sono stati la grande novità della legge Gozzini, e permessi premio che potevano essere dati premio in quanto per volontà del direttore del carcere con la firma del magistrato di sorveglianza, a chiunque, a qualunque stadio della esecuzione pena stavi, anche che ne so, uno c'era condannato a 20 anni di galera, dopo 5 anni se il comportamento era ritenuto poteva essere mandato in permesso una settimana a casa sua, certe cose di questo tipo, no? Abbastanza. Dall'altra parte però appunto l'articolo 90 viene abolito, ma viene ripristinato un sistema ancora più efferato, che è il 14, il marchio per coloro che sono macchiati di reati ritenuti particolarmente gravi, il 14 bis, e il regime penitenziario, cioè le condizioni di detenzione fatte secondo la regola del 41 bis, che non è altro appunto che la riedizione dell'articolo 90, ossia due ore di aria al giorno, socialità ridotta al minimo, pacchi con l'esterno vietati, riduzione dei libri, eccetera. Anche nell'articolo 90 c'era una riduzione dei libri, 5 libri potevi tenere in cella e non più di 5, senza copertina rigida, senza annotazioni, eccetera. E beh, le limitazioni erano, però erano 5, adesso l'hanno portati a 3 e poi l'hanno del tutto privati, cioè hanno detto non si non possono venire dall'esterno i libri, ma possono essere, siccome non potevano dire non si legge, nemmeno il regime fascista aveva questa, questo meccanismo, quindi peggioravano addirittura il regolamento fascista, questa hanno peggiorato, il 41 bis è un peggioramento, questo va detto con chiarezza, non perché vogliamo esaltare niente di quel porco e schifoso regime fascista, è che siccome ce ne siamo portati appresso diverse pezzi in termini di persone, prefetti, questori, comandanti delle carceri, funzionari del Ministero della Giustizia, eccetera, e anche un po' di idea è rimasta in questo paese, anche in cui vediamo appunto aree come la Lega vengono da quel periodo lì, paro paro, ma anche le chiacchiere che fanno molti cittadini per strada dicono delle cose purtroppo che risentono molto di quel periodo, eppure sono passati 70 anni, vabbè, ma il problema è che appunto chi talmente peggiorativi il 41 bis anche del regime penitenziario fascista, che hanno dovuto metterci un freno. Il freno qual è? Che era di 3 mesi in 3 mesi, cioè non permanente. Io ti do il 41 bis come punizione, perché tu dovresti, non è che hanno fatto rivolte, questi non hanno fatto niente, viene dato a persone legate alla cosiddetta grande criminalità organizzata e al terrorismo, così. Però il terrorismo ormai era finito, erano usciti quasi tutti, non c'era nessuno quando hanno imposto l'articolo 41 bis e poi hanno cominciato a metterci altra gente. Attualmente sono 725 persone, di cui la maggior parte questa cosa va detta, quando uno critica il 41 bis perché è riconosciuto disumano, degradante, addirittura deve essere definito dalle persone libere dentro, no? Con una testa che ragiona autonomamente, deve essere definito tortura. È tortura il 41 bis, in Italia esiste la tortura giorno per giorno, a parte le botte che ti danno nei commissariati quando ti prendono, eccetera eccetera, ma anche i 725 persone rinchiuse in 41 bis sono sottoposti a tortura. Lo Stato italiano ha sempre esercitato la tortura, non ha mai smesso. Nel fascismo ovviamente la faceva, prima pure la faceva, poi è andato via il fascismo formalmente, è rimasta la struttura fascista della punizione. E quindi dell'operato delle forze cosiddette dell'ordine, e quindi il pestaggio per avere la confessione, per farsi dire le cose, e la carcerazione come tortura per ottenere confessioni è rimasta. Considerate che, questa è una piccola parentesi, la gran parte delle risoluzioni, cioè delle indagini delle forze di polizia, carabinieri, guardia finanza, la gran parte delle indagini concluse positivamente, cioè l'individuazione del responsabile, sono state la gran parte, la maggioranza, non frutto di investigazioni attente come i libri che leggevamo, Sherlock Holmes, no, ma con collaborazioni, collaboratori di giustizia, cioè persone che dicono perché questo, perché quando si sono messe in piedi le norme per combattere la grande criminalità organizzata, la prima cosa che si è detto a queste persone è che se si pentivano, che non è un termine religioso, ma se collaboravano facendo i delatori di altri, quindi andando in galera altre persone, venivano scontata la pena, uscite dal carcere, tutte quelle cose che sappiamo, va bene. E quindi il 41 bis è stata questa cosa. Quindi, dopo, con successivi provvedimenti, l'ultimo è quello del 2002, la legge 23 dicembre 2002 da 279, hanno ulteriormente modificato il gli articoli sia 4 bis e 14 bis, quelli che individuano i reati particolarmente efferati per i quali è necessaria una carcerazione durissima, e il 41 bis che è il regime con cui queste persone vengono sottoposte, è stato quindi allungato. Prima era 3 mesi, poi è diventato 6 mesi, poi 1 anno, adesso è permanente. Quindi la cosa grave è che mentre nell'ordinamento, sia nel 75 riguardante la legge 90, l'articolo 90, sia nell'86 riguardante il 41 bis, si dice che questi regimi particolari sono effettuati in emergenze particolari, cioè c'è una situazione di tensione, una rivolta eccetera, ed applicati rigidamente temporanea, avete visto la dicitura, in maniera in un periodo strettamente necessario. Bene, il periodo strettamente necessario è diventato per sempre, quindi l'articolo, il 41 bis adesso viene dato sine die per tutta la vita, per tutta l'eternità. Ha perso quindi il suo carattere di eccezionalità, perché o si imparano a scrivere in italiano, ma se si continuano a scrivere che è determinato da ricorrenti gravi eccezionali motivi di sicurezza, da emergenze, e deve essere assegnato per un periodo determinato strettamente necessario, se le parole hanno un senso. Capisco che hanno difficoltà con la lingua italiana, perché vengono da situazioni, coloro che dirigono la giustizia e tutto il resto, non proprio, diciamo, di conoscenza bene, ma il problema non è quello, il problema è che cercano di imbrogliare la gente, e purtroppo la gente in qualche modo crede. Comunque la più grossa frottola è che loro dicono il 41 bis, quando uno si accinge a criticare il 41 bis è dato ai mafiosi, quindi se voi volete abolire il 41 bis state dando una mano alla mafia. Questa è la più grossa castroneria che mai in terra e anche in cielo si sia detta, perché non è assolutamente vero. Intanto perché, secondo i dati che ha detto ieri il ministro Orlando, la maggior parte di quelli in 41 bis sono ritenuti appartenenti alla camorra, non quindi alla mafia, e sono due organizzazioni diverse, addirittura che distano pure di qualche centinaia di chilometri: una mafia in Sicilia, la camorra nel napoletano, quindi, e poi tante altre. Ma il problema è che 725 persone non possono essere ritenute boss, perché l'accusa che ti fanno: ah, tu difendi i boss mafiosi. Ora in 41 bis non ci stanno i boss mafiosi, perché se ci fossero 725 boss mafiosi vorrebbe dire che lo Stato italiano è stato conquistato dai boss. Non è così. Evidentemente in 41 bis ci mandano tutte le persone che hanno avuto casomai un rapporto secondario, indiretto, con alcune associazioni criminali, di cui manco può darsi succede, no? Chi ha frequentato le carceri sa che a volte qualcuno dice: io rubavo le macchine e poi le davo a chi me le chiedeva, perché gli servivano macchine da ritargare, no? Può darsi che qualcuno ha rubato una macchina e poi l'ha data a qualcuno, e quella macchina è servita per fare un attentato mafioso, ma quello che ha rubato la macchina non lo sapeva. Questo qui viene condannato appunto se come fiancheggiamento, no? Appoggio indiretto alla situazione mafiosa. Cioè, questo è il quadro di questa vergognosa. Ma la cosa più grave è che, come abbiamo detto, siccome il 41 bis ha sostanzialmente questo principio, noi teniamo in condizioni disumane, degradanti, inaccettabili, fino a che tu non fai i nomi di altri da mandare in galera. Quindi, poiché, come immagino chi ci ascolta conosce esattamente la declaratoria dell'ONU, delle Nazioni Unite, per quanto riguarda la tortura, che dice ogni, cito a memoria, però è così più o meno, ogni maltrattamento fisico o anche psichico fatto alle persone da appartenenti agli organi di Stato per ottenere dietro questi maltrattamenti confessioni oppure delazioni, quel fatto è ritenuto tortura. Quindi la tortura non è tanto dall'intensità, se usi il fuoco, scavicchi le costole, non è quella la tortura. La tortura è una sofferenza fisica o psichica inferta alle persone da organismi dello Stato per ottenere confessione delle azioni. Questo è, cioè, è l'obiettivo. Se tu vuoi fare soltanto del male, sono sevizie, maltrattamenti, ma la tortura è quella messa in campo per ottenere confessioni o delazioni. Questo è il principio, e quindi questo si chiama tortura. open that shirt that slapped in our face. E allora, 15:41, per terminare questa vicenda del 41 bis, poi ne torneremo a parlare, gira, è stato steso un appello di 2 pagine e gira adesso, la prossima volta lo leggeremo, appunto sul tema non solo delle tutte le condizioni del 41 bis che sono devastanti e assurde, oltre che appunto, oltre che essere definite tortura, ma anche su questa storia dei libri. Allora, l'obiettivo, diciamo, l'iniziativa, l'azione che propone questo volantino è quello di sommergere di libri le carceri, perché i libri gli hanno vietato. Allora, il problema è chiamare tutte le librerie, le case editrici, ma anche le persone private, di inviare libri, anche non necessariamente ultime uscite, quindi tutti hanno a casa quantità di libri che appunto non proprio, ma di inondare di libri le carceri, in modo da evitare che si metta la cultura in catene. Si tratta di inviare queste libri al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in sigla DAP, Largo Luigi Daga numero 2, 00164 Roma. Inviando un pacco di libri dicendo questi libri vanno dati ai detenuti in 41 bis. Vedremo che succede. Certo, se ci fosse una risposta interessante, valida, efficace, perché appunto non c'è motivo che non leggano i libri, non c'è alcun motivo, nessuno può dire che è un pericolo per la società, ammesso che siano un pericolo questi, il fatto che leggano dei libri, cioè è solo criminalità statale, è terrorismo statale, diciamo, chiamiamolo col nome suo. Il terrorismo, d'altronde, come termine, viene dagli stati che nel loro sorgere, nel 600-700 e anche adesso, usano un terrore per tenere i cittadini all'interno di un ordine a volte un po' troppo stretto. Ecco, quindi il terrore di Stato è quello. Non è vero che il terrore è quello che usano guerriglieri, banditi, eccetera. Quella è stata una proiezione un po' stupida fatta dai giornalisti stupidi, quelli che raccolgono le veline dei potenti, per cambiare il termine. Ma se voi cercate nei vocabolari seri, il termine terrorismo viene detto terrorismo di Stato, perché è nato così e così rimane. E quindi questa è una forma di terrorismo di Stato che si può combattere, però con una cosa molto semplice, tranquilla: mandando libri al DAP, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Libri, un libro, 2 libri, 3 libri, 4 libri, un pacco di libri che si manda. Ripetiamo l'indirizzo, lo metteremo anche sul sito dove c'è la DAP di API, appunto di puntato, appuntato, P puntato, DAP, che è Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, DAP, Largo Luigi Daga, numero 2, 00164 Roma. E con ognuno si scrive la sua, comunque vuol dire libri da dare ai detenuti in 41 bis. E questa è la vicenda. Bene, perché sono 15:45, andiamo avanti con altre notizie. Dunque, è uscita interessante una sta pure su Repubblica dell'altro ieri, un sociologo che Marzio Barbagli, che si dedica sempre alle analisi intorno alla come vanno le violazioni di legge, cioè segue l'andamento da decenni del cosiddetto crimine, cioè aumentano i furti oppure aumentano le rapine oppure quelli in casa oppure quelli delle macchine, ha seguito tutte queste cose qui. Segue attraverso le carte del Viminale, del Ministero degli Interni, l'andamento delle leggi, e questo permette, un sociologo ci permette di capire che come si orienta la gente che per convinzione o per costrizione viola la legge. Allora, intanto nel 2014, l'anno appena trascorso, si è arrivati a un record. L'Italia ha stabilito il record del minor numero di omicidi, di uccisioni. Gli omicidi sono al minimo storico da sempre, cioè da quando l'Italia è l'Italia, quindi da sempre. Mentre invece sono in boom, in aumento, che cosa? I piccoli furti contro il patrimonio, borseggi, scippi, eccetera. È il portato della crisi, ovviamente. Quelle che crollano anche sono le rapine in banca e anche i furti d'auto, questi sono in calo. Le rapine in banca si sa perché le banche sono state circondate da telecamere, sistemi di controlli, allarmi, impicci, imbrogli, guardie, controguardie, eccetera, che ovviamente paghiamo noi, perché quello devi far pagare con quei soldi che metti lì dentro, non dandoti nessun interesse, zero interesse. È la prima volta nella storia del mondo che le banche si prendono i soldi, ci fanno quello che gli pare e non ti danno manco lo 0,1% di interesse. È furto totale, vabbè, ormai il crimine è passato dai militari alle banche, e vabbè, e comunque queste notizie sono interessanti perché crollano gli omicidi, la rapina in banca e i furti d'auto, perché sembra che la quantità di autobus, di macchine, di auto in circolazione non permette, ha rallentato, sono talmente tante che ha rallentato l'attività di sfasciacarrozze, a Roma si chiamano così, cioè quelli a cui uno rubava la macchina, levava la targa e gliela portava, quelli la smontavano e vendevano i pezzi di ricambio, ecco. Oppure la vendita venivano ritargate e vendute all'estero, però pure questa cosa è finita, insomma, per motivi economici. Questi sono crollati, mentre invece appunto aumentano le rapine, gli scippi, i furti, i piccoli furti di tanto. Allora, gli omicidi sono stati 468 l'anno scorso, più basso. Pensate che nel 1991, quindi 25 anni fa, erano 1916, sono ridotti di un quarto, di quattro volte, sono un quarto di quelli che avvenivano nel 1991. Questo è un dato importante, vuol dire, al di là delle chiacchiere che si fanno, intanto che la gran parte dei morti li faceva la criminalità organizzata, vuol dire che la criminalità organizzata è scesa molto nelle sue attività, oppure ovvero si è messa il colletto bianco, la cravatta, la camicia, la 24 ore in mano e sta in banca, lì sta la mafia o la camorra, non pensate che sta da un'altra parte. E infatti usano molto di meno le armi da fuoco, che invece all'inizio furono lo strumento principale di queste organizzazioni. Sono calati tantissimo, non fanno più morti, questo lo dice la realtà, cioè è così, non è che qualcuno se l'ha inventato, sono le carte del Viminale elaborate da questo sociologo del crimine Marzio Barbagli, ritrovate su Repubblica dell'altro ieri, del 21, l'Atlante del crimine è chiamato, una ricerca del sociologo Marzio Barbagli, quindi se c'è la Repubblica di due giorni fa trovate tutto. Questo è dunque un quarto, gli omicidi è molto importante, che è diventare, che vuol dire anche che c'è uno scatto, diciamo, di valore umano importante su questo terreno qui. Ma questo non ha fatto calare di una virgola il carcere, anzi, l'urlo demente, cretino della gran parte dei giornalisti, non di tutti, ma di un buon 90% dei giornalisti, che continuano, pure dei leghisti, di gente così proprio di ramenga, che dice: ah, tutti in galera, qui sparano, tu ammazzano, chi non ammazza nessuno, loro ammazzano casomai quelli che tolgono il lavoro. quelli ammazzano sì perché ti riducono la fame, ma insomma, ecco, il numero delle macchine rubate ha raggiunto il minimo, il più basso negli ultimi 30 anni. Poi le città pure qui ha sfatato un pregiudizio, un luogo comune, le stupidaggini che dice la gente, perché non ci siamo abituati a contare fino a 10, in qualche caso fino a 100, prima di proferire parole a vanvera, no? Se voi chiedete a una persona per strada qual è la città con maggior crimine, tutti spareranno Napoli, casomai qualcuno dirà una città siciliana, ma Napoli lo dicono, perché l'imbecillità della stampa, dei media, tutti i media dicono delle baggianate che veramente farebbero camminare i treni se fosse carbone. Ebbene, non è vero, la ricerca scientifica ci dice che le città dove è più grosso il crimine, sapete quali sono? Primo, Bologna. Bologna, capitale dei borseggi e di tutte le altre attività. Poi Napoli è uno degli ultimi posti, poi dopo viene Torino, Milano, Firenze. La città più sicura è Napoli. E imparate a contare fino a 100, ragazzi, e prima di dire cavolate, dice ma l'ha detta la televisione, appunto, è sicuramente, non proprio certamente, ma al 90% è una stupidaggine se l'ha detta la televisione, perché la televisione serve a dire le bugie e a dirle con sicumera tale, con forza tale che la gente ci crede. Quindi questa è leggera, ritagliate questo pezzetto, questo articolo, la Repubblica di due giorni fa, la trovate, c'è questo articolo qui con tutti i numeretti, e così quando qualcuno sentite che dice ah qui a Napoli al meridione sono tutti ladri, bisogna chiudere, e voi intanto gli prendete il giornale, glielo appallota e glielo mettete in bocca e dice mangia il giornale, perché così può darsi che rinsavisci, visto che sei stupidito a tal punto a forza di vedere televisione e crederci, e quindi che Napoli è la città più sicura perché avvengono meno reati, mentre invece poi salve Firenze, poi Milano, poi Torino e poi Bologna, che sono le più alte, che hanno più crisi. Roma sta non è né capitale del meglio né capitale, sta a metà strada, comunque è interessante perché leva un sacco di pregiudizi cretini, no? Perché no? Perché sono stupidi? Perché è un paese di stupidi, diciamo la verità. Instupidito molto, non ce ne vogliono, perché la stupidità è una cosa che non è che è genetico, si acquisisce. Se uno vede sempre la televisione e ci crede, è chiaro che matura idee balzane, sbagliate. Se uno legge i giornali e ci crede, è matura idee sbagliate. Se uno frequenta combriccole in cui si dicono cavolate e nessuno le va a verificare, è chiaro che diventa stupido. È un fatto normale, naturale, è come se uno smette di camminare. I muscoli delle gambe si afflosciano e poi non riesce più a camminare, siamo fatti così, è inutile che... Quindi questo è divertente perché cancella di colpo tutte le stupidaggini che si dicono. Invece un dato impressionante, lo diciamo senza stacco musicale, perché a fianco di questo, mentre c'è stato questo record che riguarda due secoli, 800 e 900, più il pezzo di questo secolo qua, del fatto del più basso numero di omicidi, solo 468 nel 2014, un quarto di quelli che erano negli anni 90, assistiamo invece a una, se non aumento, permanenza di omicidi, ed è una cosa che veramente fa venire il groppo alla gola. Gli unici omicidi che non sono calati in questo paese sono i femminicidi, che di fatti sono 88 dal gennaio, cioè in questo 2015, più o meno lo stesso numero, anzi addirittura con un piccolo incremento rispetto agli stessi mesi, i primi mesi del 2014. Nel 2015, i primi mesi, c'è stato un incremento dell'8%, quindi tutti gli omicidi calano, rimangono alti, addirittura crescono i femminicidi. Questa cosa è una cosa che non ha nessun senso lasciarla alla gestione della magistratura, dei media o della polizia. È un problema che dovremo vedere con calma. Gli uomini di sesso maschile hanno un grosso problema con cui non hanno ancora fatto i conti, che hanno un concetto di potere nei confronti dell'altro sesso che veramente raggiunge livelli spaventosi, perché questi femminicidi poi sono anche qui la punta dell'iceberg di un insieme di fatti violenti, aggressivi, a volte psichi, non sempre fisici, non solo fisici, psichi, ricattatori, molestie, cioè della vergogna squallida con cui il genere maschile si rapporta all'altro genere. È una cosa su cui dovremmo concepire, appunto, è inutile delegarla a qualcuno, non c'è magistratura, men che meno carcere. Nel carcere chi c'è stato ve lo dirà, io la frequentazione del carcere è stata pluridecennale, vi posso dire che se mandate in carcere i violentatori, i responsabili di femminicidio o maschi, questi qui si galvanizzano del loro operato, perché il carcere serve a questo, vengono mandati in ambienti dove ci stanno tutti simili a loro e quindi si galvanizzano, sono convinti di aver fatto una cosa buona, ne vanno orgogliosi, quindi il carcere non serve, anzi è negativo. Il carcere non a caso lo esaltano quelli che dentro di loro hanno, se sono maschi, hanno la voglia di fare del male alle donne. Chi dice carcere per i sex offenders, si chiamano così quelli che fanno reati intorno a offendere, diciamo, il sesso opposto, hanno dentro di sé la voglia di praticarlo, di essere, sono dei violentatori in pectore. Guai se sentite gridare galera, attenzione, scansatevi da quello, perché è sicuramente una merda trifolata e che è sicuramente un violentatore che appena toglie l'occasione lo farà. Quindi non serve carcere, non serve, serve soltanto che ci sia una battaglia culturale fatta bene, ma violenta, forte, per stroncare questo maschilismo ancora troppo imperante ovunque. Ovunque, questo ovunque vuol dire in ogni ambiente della società, società alta, società media, società bassa, anche nei settori proletari e perfino nei settori dei compagni e delle compagne. Quindi in campana cerchiamo di evitare di dire stupidaggini. Questi sono dati che fanno impallidire, perché vergognarsi del proprio genere, in questo caso di quello maschile, non è una bella cosa. Perché appunto non deve succedere, non è possibile che in un paese calano gli omicidi e aumentano i femminicidi, è impossibile questa cosa qui, vuol dire che c'è un guasto dentro la mente, il corpo degli uomini, diciamo, del genere maschile, hanno qualcosa che non funziona, ma non dal punto di vista medico, che la loro cultura sta degradando spaventosamente, e quindi bisogna metterci mano, come con la cultura, con la discussione, col dibattito, con la lotta, con l'auto-organizzazione, procedendo nel cambiamento di questa società, abbattendo il capitalismo e con esso capitalismo, il maschilismo. Va bene, andiamo avanti. Avete sentito, e qui siamo in finale, però va detta questa cosa, perché la procura, i soliti Ribaudo e Padalino, e i procuratori di Torino, quelli che hanno vogliono seminare terrore tra i notav, hanno chiesto 9 mesi anche per lo scrittore De Luca, fantasticando, ma è bello, non abbiamo tempo, ma è bello, la trovate dappertutto su internet, la richiesta che ha fatto il pubblico ministero, in questo caso Ribaudo, che si è messo a dire lo scritto di Eri De Luca, che diceva è giusto fermare la TAB, perché semplicemente questo dice, no, questo esalta le persone, li porta a condurre atti di ovviamente tutti coloro, qualche giornalista è andato in giro, ma non giornalista, questi importanti, quelli non importanti che però sono più intelligenti, è andato in giro, io TAB ha detto, ma voi avete letto Eri De Luca? Molti non avevano letto questo fatto per cui lui è stato condannato, eppure non ancora condannato, il PM ha chiesto questa cosa, non credo che verrà condannato, a meno che anche il giudice straparla, comunque vabbè, vedremo se verrà condannato o meno, però insomma il problema è che le motivazioni di questa condanna sono gli scritti di Eri De Luca hanno convinto gente, la popolazione nota, a fare atti di sabotaggio. Andando in giro, qualcuno andava in giro tra la gente appunto del Notav e dicevano, ma avete letto? Non è